sogno, ti vedo, ti sento, ti scopro, mia stella. Più che mai nei tuoi occhi io vedo un'anima bella. Più che mai sono tuoi, sono miei, sono nostri sigilli. Siamo uniti dall'alba che chiede la luce ai suoi figli. Io e te, amore, soli in questo mare, a farci cullare dalle onde del sole. Io e te, amore, siamo due conchiglie in mezzo a questa spiaggia, due anime gemelle. Tu sei l'acqua che inonda, che guida, che scalda il mio cuore. La mia terra, il mio cielo, il mio grano, il mio fante, il mio fiore. La padella che cuoce, ti brace, i miei funghi, porcini. Il mio cane geloso che abbaia quando siamo troppo vicini. Io e te, amore, soli in questo mare, a farci cullare dalle onde del sole. Io e te, amore, siamo due conchiglie in mezzo a questa spiaggia, due anime gemelle. Io e te, amore, soli in questo mare, a farci cullare dalle onde del sole. Io e te, amore, siamo due conchiglie in mezzo a questa spiaggia, due anime gemelle.